La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Oggi sappiamo che vivrà, fino alla fine dei suoi giorni, nel faro di Capo Finisterre, all'estremo nord della Spagna. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле еле. Giorno per giorno mi sto abituando alla prigionia del faro. Ed è successo persino quello che mi aveva promesso all'inizio Gianluca Nicoletti, ovvero che nei giorni limpidi, da qui, con un cannocchiale, si può vedere New York. Effettivamente c'è stato un giorno, un solo giorno, e io l'ho vista. E l'ho vista così, così lontana, così sognata. Mi è sembrata proprio uguale a come la descrive Ezra Pound nella sua poesia. E quando dice New York, mia città amata, candida, sei una fanciulla senza seno, sei snella come una canna d'argento. Ecco, da lontano sembrava proprio una canna d'argento invece di questa città anche così mostruosamente violenta. Ah, ecco, a consolazione ci sono moltissime donne, anche uomini in questo momento, che stanno pensando, sì, sarò pieno di difetti, però ho anche dei patrimoni di grazia, di fascino. Ma perché nessuno mi vede? Ma perché nessuno mi si fila? Ecco, per queste persone vorrei leggere un brano da un libro che non è pubblicità, non è più in commercio. Si chiamava Sbrigati mamma. È un vecchio libro degli anni Ottanta. L'ho scritto io, ma neanche mi ricordo come. Io, se fossi un altro e mi incontrassi, mi innamorerei di me al primo colpo. Perché non sono né alta né bella. Ma se ti acchiappo e ti racconto una storia, sei perduto. E sono perduto anch'io. Perché il volgare seduttore inventa lupi e fate alla conquista di chi ascolta, ma il vero affabulatore del suo lupo ha veramente paura della sua fata e l'amante. Per questo la mia vita è una fiaba, solo che purtroppo non c'è nessuno che l'ascolti. Anzi, non c'è uno straccio di uno che mi voglia bene. Se fossi un altro per il mio corpo, avrei la stessa tenera indulgenza che ho io, che me lo porto dietro come un compagno fortunato d'aver trovato me, che gli voglio tanto bene. Mi innamorerei di me per la ragione per cui tutti mi odiano, perché mi amo. Amore scandaloso in questi tempi in cui va solo la morte. Non ho figli, ma sono madre per natura e fortuna. Madre non vuole dire parto e frattaglie. Madre è quella che al buio ti tiene stretto e racconta. Madre è quella che ti distrae dalla paura. Qui Capitaneria di Porto, è in linea un certo Gianni che chiede di Barbara Alberti. Pronto Gianni? Che ti è successo? Sono qua che ti ascolto. Dopo tanti anni di una magnifica relazione con una ragazza stupenda, non sono stato bravo a darle quello che lei mi aveva chiesto. Non aveva chiesto niente, poco e niente, convivenza e un figliolo. Io invece non sono stato capace di dargliela. Ho detto vai. A distanza di tempo lei ha trovato la persona e mi ha chiesto il permesso di poter andare. In quel momento ho avuto un colpo. Non ci avrei mai, mai, mai creduto. Cosa? Che lei potesse lasciarla? O... Sicuramente sì, che potesse accadere una cosa del genere. Dopo tanti anni di convivenza, ero convinto che la mia ignoranza maschilista, però bisogna uscire con stile, spero, anche se in questo momento sto soffrendo, ne sono convinto. Non si può, dalla sera alla mattina, cambiare il cane per il padrone, però... No, non ho capito questo del cane del padrone, mi dica meglio, non si può? Ma io, è una cosa che è nata all'improvviso, non è possibile che nell'arco di 40 giorni lei modifichi il suo asset improvvisamente per una persona, però si vede che era la giusta punizione per la mia arroganza. Che è l'asset? Che ha cambiato. Mi scusi, che sono un altro secolo, queste parole non le conosco. Sta sempre sul faro o sta in terraferma? Sto sempre sul faro con i gabbiani odiosi. Ma mi dica, bene, che vuol dire asset? L'assetto di vita vuol dire? Di vita, esatto. E... bisogna uscire con stile? Sì, sono contento per lei, perché spero che questa persona possa dargli quello che non gli ho dato. E non mi dica, in questo momento io non è vero quello che dico. Ma senta, però scusi, lei prima mi ha detto, mi chiedeva la convivenza, ma lei e poi ha detto dopo anni di convivenza. No, dopo anni che siamo stati insieme. Ah, di stare insieme, ecco. Io sono sposato, parliamoci chiaro. Ah, lei è pure sposato. Sì, bisogna avere il coraggio di ammettere queste cose. Ah, ecco, quindi il punto è che lei era di quegli sposati che non lasceranno mai la famiglia, quindi capisco anche che le voglia bene, le auguri ogni bene. In qualche modo lei è anche sollevato, tutto sommato. No, no. Io sto pagando duramente. No, perché la doppia vita lei non le mancava? Era arrivata alla conclusione. Non le pesava, voglio dire? Aspettavo che il mio ultimo figlio arrivasse a 18 anni per separarmi, difatti adesso mi sto separando. Senta, una mia grande amica si è messa con un uomo sposato a 20 anni, lui ne aveva 40 e anche lui aspettava che crescessero i figli. Sono stati insieme adesso la mia amica a 60 anni. No. E lui ha fatto in tempo a diventare nonno, bisnonno, persino trisavolo. E non lasciava mai nessuno. E non ha mai lasciato nessuno. No, io invece ho fatto le pratiche di separazione. Io il 31 di ottobre praticamente... Ah, quindi lei era pronto? Sono libero. Sì, sì. E che nel momento in cui era pronto, lei non ne ha potuto più. Grazie della sincerità, perché non è da tutti. È proprio questo che volevo testimoniare. Sì, perché i maschi vogliono sempre far bella figura. No. O autoaccusarsi per fare una figura ancora migliore. Quindi lei no. Bella figura. No, lei no, infatti lei semplicemente ci racconta la sua esperienza. E sua moglie, sua moglie in tutto questo, ha mai saputo di questa storia? Le mogli sanno sempre tutto, ma non sanno mai niente. Vuol dire che faceva finta di niente? Diciamo che, sì, vabbè, diciamo così. E adesso, che lei ha chiesto la separazione, fa finta di niente tuttora? No, ormai non si può tornare più indietro. No, va bene, dico, ma... Io non voglio tornare più indietro. Che motivazione ha dato a sua moglie per separarvi? Incompatibilità di carattere. Ho fatto la consensuale. E questa ragazza non la chiama più, non la... Diciamo che lei mi chiama ancora, ma io non rispondo. Non ci crede? È così. No, ci credo. Io non ho nessun motivo per dubitare di quello che lei mi dice con una voce così franca. Grazie. È un grande, ispirato piacere incontrare degli uomini pronti a dire la verità. Quello che non ho mai fatto prima era di non dire la verità. Le voglio bene e le auguro quello che io non sono stato capace di dare. Mi creda, è il prezzo della mia sincerità. Arrivederci e auguri per la sua nuova vita, tutta luminosa di verità, spero che sia vera. Buone cose. Grazie, salve. Arrivederci. È in arrivo un messaggio nella bottiglia da parte di Roberta. Cara Barbara, mio marito mi aveva lasciata per un'altra, ma poi ha chiuso con quella donna, rivelatasi ninfomane e interessata. Soffro più che mai. Io rivoglio l'amore di mio marito. Lo voglio riconquistare. Ho pensato di migliorare le mie scarse doti amatorie. Esiste una scuola seria di sesso. A me piace fare l'amore e vorrei migliorarmi. Senti, Roberta, no. Che Dio ti salvi dalle scuole del sesso. In questo momento la migliore scuola è la spinta erotica che ti viene dal sapere tuo marito felice sessualmente con un'altra. Quello è un insegnamento, non teorico, sulla carne. Questo è un marchio e un suggerimento. Però ti voglio raccontare una storia che si trova in un libro che si intitolava L'ho fatto per amore. Ed è la storia di una moglie anziana, a più di 56 anni, la quale scopre che il marito ha un amante. E ha un amante da tanto tempo. E si rende conto, ma d'improvviso. Lei si era sempre accontentata, eppure capisce che il sesso tra loro era sempre stato mediocre, meccanico, avaro, inesistente. E allora la donna ha una illuminazione, cioè capisce che esiste una dimensione che lei ha sempre negato, che però suo marito ha conosciuto con un'altra. Nonostante siano sposati ormai da 30 anni, lei decide di recuperare per amore quella dimensione che le è sempre sfuggita. E cosa fa? Diventa una scolara commovente e testarda e va a scuola da una prostituta. Si nasconde dentro l'armadio, come in una pochade. Però seriamente, e assiste agli incontri della donna. Studia con passione, studia con uno zelo che a chiunque sembrerebbe ridicolo, ma che per lei è una cosa santa. Impara questi colpi irresistibili e segreti, che poi sono quelle quattro cose, voglio dire, quelle quattro povere cose sono sempre quelle, ma lei non le sapeva. E adesso si considera pronta. Ed ecco che dopo una vita quasi casta e sessualmente ignara, scoppia la scintilla tra lei e il marito. Lui è sconcertato, non aveva mai sospettato questi istinti nella moglie e con 30 anni di ritardo questa donna occupa finalmente, degnamente, il talamo. Però il punto è che questa donna, come ha fatto questa donna a riconquistare il marito? Beh, qual è stata la prima emozione che l'ha riunita lui che ha? E non è stata con qualche trovata di sesso mirabolante. Non è stato con le nozioni che lei ha imparato dentro l'armadio. No, è successo in un modo molto semplice, che è la portata di tutti. Una sera, improvvisamente, sono a cena e lei, invece di dire vuoi un altro po' di minestra, d'un tratto gli stringe il braccio, all'improvviso, con una elettricità e con un'intenzione che non c'era mai stata tra loro. In questa stretta di braccio lei concentra tutta la sua sapienza. Nell'armadio della prostituta non è che avesse capito la tecnica, lei ha capito la forza disperata, la forza bruciante che può legare due creature. E così riebbe suo marito. Ma niente sarebbe accaduto senza quella stretta. L'elettricità o c'è o non c'è, e non si può imparare dentro nessun armadio. А как первая любовь, она сердце жжет. А вторая любовь, она к первой льнет. Quassù nel faro c'è un amico che mi manca. Non lo vedevo mai. Ci sentivamo pochissimo, però era sempre con me e c'è ancora. L'ho conosciuto all'inizio degli anni 90 in una radio. Entro e vedo quest'uomo gigantesco, con la testa rapata, gli occhi freddi, degli occhi da lucertola. E sembrava un galeotto di Genè e camminava come imponente, sembrava il re di un paese cannibale, molto diffidente. Ancora oggi, dopo 20 anni, ci diamo del lei. Un giorno finalmente si è fidato e mi ha detto con un'aria solenne, venga. Mi ha fatto vedere una cassetta e io scopro con infinita meraviglia che quest'uomo si vestiva da donna. Si metteva un parruccone a 6 piani, cantava e ballava e diventava un altro. E vestito da uomo era uno dei maschi più affascinanti che abbia mai conosciuto. Capitaneria di Porto, come richiesto, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è in collegamento. Barbara. Mauro, è lei? Sono io. Oggi fa più paura del solito, ho una voce da orco. No, è la voce del risveglio. Mi scusi, mi scuseranno anche gli ascoltatori, ma veramente faccio paura anche a me stesso. Tra l'altro, quello che mi è sempre piaciuto di lei è che lei è uno dei più grandi, dei più accaniti, dei più nobili nemici di se stesso. Oddio. Eppure creda che in questa voce c'è una sfumatura da buona nonnina. Da buona nonnina che poi si trasformerà in lupo e forse se l'è già mangiato. Però c'è qualcosa. Tanto anche le nonne, si ricordano, i piccoli, ci facevano anche sempre un po' paura. Erano sempre le messaggere dell'orrore, ci raccontavano queste favole di bambini sgozzati. Ma la faccio indispettire se le chiedo qualcosa sull'amore? Su di lei e sull'amore? Non saprei cosa risponderle. È un territorio sconosciuto per me. Potrei essere uno dei marinai di Colombo e guardare da una delle 3 caravelle l'America e mi dicono quello è l'amore. Io che non l'avevo mai conosciuto prima lo guardo e non lo conosco di nuovo perché poi me ne ritorno a Genova, per cui la storia tra me e l'amore è una storia mai cominciata. C'è stato qualche barlume, ma ho avuto delle visioni come aver preso un'isola per un'altra, come fece Colombo. È un territorio sconosciuto, credo abitato da persone che hanno voglia di unire le loro rispettive solitudini e io non ce la faccio a reggere la mia, figuriamoci se ce la faccio a reggere una solitudine altrui e a dovere anche fare ricorso a un assistenzialismo di vario genere, perché credo che l'amore sia un mutuo soccorso, no? Poi alla fine, per come viene vissuto e inteso. Avendo questa adorazione insaziabile per l'assoluto, e l'assoluto notoriamente non esiste, è un'invenzione che ci facciamo noi finti romantici, ma in realtà viviamo con la pretesa di qualcuno alla nostra altezza o di qualcuno che si occupi e preoccupi di noi, il risultato è che gli unici a preoccuparsi di noi saranno quelli delle pompe funebri, l'ultimo viaggio. Dopodiché, ciao! Sa che mi ha molto impressionato questa madre della ragazza uccisa in Puglia, che dichiara con una leggerezza e anche con un'ingenuità, forse con nessuna delle due o consapevole di quello che diceva, che crede nella reincarnazione, per cui non è particolarmente tramortita dalla scomparsa della figlia. Io ho il terrore della reincarnazione, si immagina se ritorno grosso così come sono stato nella prima vita, se ben inteso questa sia la prima vita, ancora senza amore, grosso, affamato di quello, senza poterlo nemmeno assaggiare, beh, insomma è una tortura che non voglio nemmeno pensare di subire. Ma infatti lei ha toccato due religioni con questo. In primo luogo, se i cattolici fossero sinceri, anche loro dovrebbero fare una festa da ballo quando si muore, per il fatto che dovrebbe essere finalmente la vera vita. Infatti mi ricordo, mi arrabbiai moltissimo al funerale di mio padre, che c'era un prete molto sciocco, il quale continuava a parlare della bellezza dell'aldilà. Allora ho detto appunto, ma allora perché non facciamo una festa invece del funerale? E invece, rispetto a quello che dice lei, l'orrore della reincarnazione, infatti lei sa benissimo che gli induisti corrono a, non so più se adesso in questi tempi moderni lo fanno, ma credo che l'India sia per fortuna indietro rispetto a questo, quindi ancora più tradizionale di noi, e che quindi vanno a bagnarsi nel Gange per rompere la ruota delle nascite, per rompere questa terribile condanna del rinascere. Rompiamola per favore, anche perché di vita ne abbiamo fatta una, e per quanto insomma non sia piacevole, un'altra sarebbe insopportabile. Sono le aspettative deluse, è la solita storia. Quelle mi mancano, non vorrei passare un'altra vita avendole troppe e non riuscendo ad agguantarne poi nessuna, quello mi dispiacerebbe alquanto. Io credo, Mauro, ho sempre avuto un sospetto infamante su di lei, che lei sia un ottimista travestito. Se io veramente professassi tutto ciò che professa lei, come se fossi un nichilista dichiarato come lei, io mi sarei sparata 6 anni. Invece lei è qua, è vivo ed è sempre più vivo. E le dirò di più, non credo un'altra cosa che lei dice quando le dice se rinasco grosso. Io credo che se lei fosse nato magro come Benigni e bello come Lord Byron, io credo che lei ugualmente sarebbe stato un fottuto pessimista intellettuale del Novecento. Lei ha tutte le malattie del Novecento, io l'amo per questo. E poi scusi, ma mi spiega perché mette tanto buon umore? Come mai però vederla piace ai bambini, a conquistare da orco nonna? Piace a tutti, perché? Lei suscita tanta simpatia e quindi, caro mio, lei ha toppato. Lei ha toppato come grande nemico della vita, come grande nemico di se stesso. Ho toppato in un senso, ho toppato nell'altro. E beh, che il suo sogno, perché le guai, ma neanche il successo l'ha ammansita, l'ha acquetata. Io ho detto, adesso che è amato da tutti, che comunque è conosciuto, ha avuto un grande successo, forse sarà più buono con se stesso, ma che è ancora più cattivo. Ha brandito quest'arma contro se stesso, bravo. A как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. Negli anni 50 lo zio Leone, il mio zio che era di natura sedentaria, non si muoveva mai dal paese, d'estate diventava improvvisamente un avventuriero. Partiva in camper con i suoi amici per un gran giro, le cui mete favorite erano di solito Parigi e Amsterdam. La nonna Santina, mamma dello zio, religiosissima, era morbosamente attaccata a questo figlio maschio. Quando lui si preparava alla partenza, lei alzava la testa dal rosario e cominciava la sua campagna anti-estero, anti-movimento. Gli diceva, «Encigi il mio cocco, ma dov'è all'estero che te pericoli?» Cioè che va incontro ai pericoli. «Ma no, ma», diceva lui, «enno viaggi istruttivi, imparammo un mucchio le cose, gimo per i musei, vedemo i monumenti, e poi mangiamo la roba di quei paesi, no? Ci facciamo una cultura». Ma la nonna era sorda a questi argomenti, e rispondeva sempre questa sua, le abituata alle litanie di chiesa, poi era tutta una litania la sua vita, «encigi il mio cocco, gimo al santuario della Verna, gimo delle preghiere». Oppure ci mongiro a fare picnic a Montaguto, a Rigobello, ma lui inesorabilmente partiva. Ma che andava a fare? А как первый обман, да на заре туман, а второй обман закачался пьян. Un giorno con mio fratello stavamo frugando, che era la nostra attività preferita da ragazzini, da bambini, in quella casa grande che era una torre sul torrente Reggia, e veniva chiamato la Reggia. Nei pomeriggi estivi, quando i grandi dormivano, c'era un momento magico, c'era un momento di sospensione dell'autorità, una zona franca in cui non ci sorvegliavano, che era più libera della notte e anche più impunita. Insomma, frugando fra le cose dei grandi, da un certo mobiletto a un certo punto viene fuori un tesoro scottante, ed erano le riviste straniere, piene di donne nude. Noi non capivamo i testi, che erano in francese e in olandese, ma le immagini erano chiarissime e credo che siano stati fondamentali per l'educazione sessuale di mio fratello. e finalmente si scoprì che cosa ci andavano a fare lo zio Leone e i suoi amici a Parigi e ad Amsterdam tutte le estati. Andavano a rifornirsi di riviste pornografiche, che allora in Italia erano proibite. Più tardi, quando ho scritto il mio primo romanzo, che si chiamava Memorie malvagie, ho raccontato a modo mio tutta la faccenda. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. Sharmanka sharlatanka. Ed ecco come, appunto, in questo romanzo che si chiama Memorie malvagie, avevo raccontato e reimmaginato la storia dei viaggi di zio Leone, del suo rapporto con nonna Santina, dei suoi misteriosi viaggi in Olanda o in Francia, da cui riportava le riviste pornografiche, perché l'amore virtuale non è certo cominciato oggi. Un giorno nonna Santina disse, come tante volte aveva detto, «Sacro cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più», rivolta a Cristo. Spostò l'occhio e si accorse che suo figlio Leone somigliava come una goccia d'acqua a Gesù di Nazareth. Stessa barba, stesso pallore ardente di uno che ha i problemi. Quando la nonna si accorse della somiglianza tra Cristo e il figlio, era tardi, era troppo tardi. Ormai le si era aperta una caverna nel petto che grondava di nero dolore. E allora cominciò a dirgli, se ti sposi mi lasci sola. E lui rispondeva, mamma che dite, non mi sposerò mai. Che bravo figlio, diceva lei, non esce mai la sera per starmi vicino a dire il rosario. Eppure la gioventù oggi è diversa, come lui non ce ne sono più. L'ultima volta che disse questo, Leone aveva 62 anni e già da molti era disperato e solo. Dopo, quando ancora era giovane, dopo che la nonna gli aveva detto appunto «se ti sposi mi lasci sola», zio Leone non vedeva più donne per non dare un dolore alla madre. Però andava spesso in città. Andava a Perugia, prendeva la corriera, partiva di nascosto con gli occhiali neri e il bavero alzato. E una volta arrivato nella città tentacolare, in questa Perugia degli anni 50, con una nebbia, guardava le vetrine passando rasente ai muri, abbassava gli occhi al passaggio delle ragazze truccate. Le vedeva ridere con quei giovanotti e li compativa, pensare a questi giovani che si accoppiavano come sciocchi animali, e pensava con orgoglio, nessuno di loro ha una madre come la mia. Как наш дворня бежали в классической паре. E arrivava alla grande edicola. Lo facevano passare per una porticina e lo riceveva poi un signore piccolo e severo che gli faceva scegliere le riviste straniere. Perché allora le riviste pornografiche erano soltanto olandesi, francesi. Forse non capiva neanche i testi, ma dei testi gliene importava poco. Lo zio ne prendeva un mucchio senza neanche guardare, stringeva al petto le riviste straniere e poi correva via, inciampando ogni tanto per queste vie strane della città, ubriaco al pensiero di quando finalmente avrebbe potuto aprirle. Magdalena ha il colletto bianco, ma così chiaro il suo viso che l'aria intorno si fa trasparente e quasi vera. Lei non guarda chi la guarda. Ha gli occhi bassi, le mani incrociate. Per un attimo estenuante dura il riserbo di Magdalena. E quando l'attimo è finito e alza lo sguardo, chi la vede è perduto. Per i suoi occhi di mandorla amara, per le ginocchia di trine che appaiono sotto il vestito di scuro velluto di un tempo severo. Sotto il lume frangiato, Magdalena fa cadere la gonna. E il rimorso prende la gola, per chi la profana, per lei che si fa profanare. Dietro il divano si toglie il colletto. Tra le ombre di un letto da tempo sfatto, appare il nudo di Magdalena, fatto di bianco e di nero, e di velluto severo il suo grembo aperto. E lì tutto si ferma, e ogni gesto è interrotto. Lì tutto sarebbe possibile, se fosse possibile, incontrare Magdalena e dirle «No, questo mai». Sono tutte follie. L'unica sarebbe ucciderla, in qualsiasi momento, con le sue finzioni che mai per un attimo sembrano vere, col suo nome che non si deve sapere, e tutto questo in silenzio. E voltando la pagina, Jenny di Brooklyn aveva uno slip a bandiera, Ludmilla due nei sulla bocca. Lulu di Parigi apriva le cosce sulla Torre Eiffel che le entrava nel pelo. Donne buone per una sera. Quando la pioggia picchiava sugli alberi intorno alla torre e suggeriva a zio Leone i desideri di tutti gli uomini. Solo per lui erano le donne delle riviste straniere. gelosamente le chiudeva a chiave in un cassetto di noce. Per loro non tradiva nonna Santina e quel male che non la faceva mai morire. Ogni anno ai primi freddi zio Leone bruciava le sue vecchie donne aspettando le nuove, relazioni fuggevoli, degne di essere dimenticate, ma fino alla fine rimase Magdalena. Fu per il suo colletto bianco che si toglieva alla pagina seguente, per le sue mani intrecciate nel pallore del ventre, che zio Leone pianse, per una volta, davanti a tutti, quando era già vecchio, e fu l'unica volta. Quando la nonna Santina era quasi morta, radunando tutte le forze, calò giù per le scale, spaventando i gatti, che per quanto adusati alle cose d'inferno, furono atterriti dal suo non toccare i piedi per terra, dalla camicia che sfiorava le code con un brivido sottile, più della carezza di Satana. La nonna teneva d'artiglio le riviste straniere, fece giustizia. In silenzio buttò nel torrente le donne di Leone. E lui dal piano di sopra, ormai vecchio, dalle persiane semichiuse, vide volare via tra i cespugli di salvia, lungo i muri, volti e corpi di cui tutto conosceva. Con angoscia e un remoto piacere, vide l'acqua bagnare il ventre e i capelli, finché ogni cosa scomparve in un torbido gorgo. Fu il suo ultimo gesto. Un'ora dopo, la nonna morì. Alla fine di tutto, zio Leone si chiuse in casa con gli ultimi gatti e sprangava le porte perché non potessero uscire. La sua faccia, i capelli, gli occhi dei gatti divennero bianchi per mancanza di sole. Qui Capitaneria di Porto, è in linea Luisa per Barbara Alberti. Pronto Luisa? Ciao! Perché ciao. Mi chiami? Ti chiamo perché volevo raccontarti la mia storia che mi è capitata qualche anno fa. Ovvero ero fidanzata con un ragazzo da parecchi anni, forse anche un pochettino troppi, e abbiamo organizzato tutto il matrimonio come si conviene, soltanto che poi la sera prima ho parlato con un'amica che mi ha chiesto ancora conferma perché mi vedeva un po' strana e mi sono fatta coraggio e ho deciso di non andare in chiesa, solo che è successo un putiferio e io posso immaginare. Avevo lanciato diversi segnali negli ultimi periodi, però evidentemente non eravamo troppo consapevoli né io né lui. Non è che mi avessero obbligato, avevamo deciso insieme di fare questo passo perché tutti ormai se l'aspettavano, pure noi ce l'aspettavamo un po' da noi stessi. Però, quanti anni avevi? Avevo 30 anni quasi, 29 anni. Decisi di mollare tutto, spendendo pure un sacco di soldi fra l'altro, perché un matrimonio oggigiorno costa, e tirandomi dietro le ire di tutti quanti, e me ne sono stata un paio d'anni felicemente da sola, gustandomi un po' la solitudine che a quell'età si recupera bene. E lui come ha reagito? Lui molto male perché non se l'aspettava, perché il matrimonio rappresentava anche risolvere tutta una serie di problemi che lui aveva essendo non residente a Roma, e quindi insomma, ma anche perché poi in effetti poverino lui mi amava molto di più di quanto non l'amassi io, quindi di conseguenza e quindi ha fatto sofferto molto bene anche tanto, insomma, mi è anche dispiaciuto, mi ha ringraziato dopo parecchi anni, mi ha ringraziato perché si è reso conto insomma di avergli risparmiato il peggio. Perché certo. Insomma bisogna, secondo me bisogna essere quello che ama di più in un rapporto per viverlo bene e viverlo felicemente, insomma. Invece quando ti rendi conto che sei quello che ama di meno, non lo so, insomma, non mandava più e quindi non me la sono sentita. È stato però molto molto faticoso, perché nessuno lo capisce, anzi la maggior parte delle persone mi hanno detto: non ci potevi pensare prima? Cioè, a uno che si sposa e si separa dopo una settimana nessuno chiede niente per rispetto, cioè chissà che cos'è che non è andato, e quindi non interferiamo nella coppia, avrà trovato qualche brutta sorpresa. Uno che ci pensa prima, il giorno prima, gli viene chiesto: ma perché non ci hai pensato prima? Insomma, un paradosso. Dopo un paio d'anni ho incontrato invece l'amore della mia vita, che è il mio attuale marito, e che dovevo proprio incontrare, perché l'ho conosciuto una volta presentata da un amico comune, una sera, e in quella stessa sera ho capito che l'avrei dovuto conoscere esattamente una settimana prima in un altro posto, dove un altro amico me lo stava presentando, ma io non ho seguito questo amico comune che voleva fare le presentazioni perché ero girata da un'altra parte. Dopo è venuto e ha detto: ma ti volevo presentare un mio collega, perché non ti sei girata? Tutti poi di regioni d'Italia diverse, cioè tutte coincidenze molto molto strane, perché in posti dove siamo stati una sola volta e mai più, né io né lui. Quindi insomma, quando poi l'ho conosciuto veramente dopo una settimana, andai a casa sua, seppi che lui era fidanzato perché parlava appunto con questo amico comune della sua fidanzata, non ho potuto trattenermi dal dire al mio amico: dico, vedi, questo qui è un ragazzo da sposare, questo lo sposerei domani mattina. E infatti dopo due o tre anni ci siamo sposati. Poi ma sai, io ho visto un film tanti anni, io non mi ricordo quanti, ma insomma Sliding Doors. Sì, meraviglioso, per me, esatto. Per me è diventata una Bibbia, perché mi sono resa conto della infinita importanza del caso. Sì, che poi altri non chiamano caso, ma ti sei sposata in chiesa? Sì, ci siamo sposati in chiesa. Ma perché sei credente o perché è più solenne come ma consacrazione? Ci siamo sposati in chiesa, dico la verità, soprattutto per fare contenti i genitori, e i miei avevano avuto già un bel trauma dopo il primo matrimonio mancato. E una cosa ho fatto però, mi sono sposata nella stessa chiesa che avevo prenotato e pagato. Di un cinismo abominevole. Sì, perché era troppo bella, gliel'ho fatta vedere e gli è piaciuta tantissimo anche. Senti. A lui. Lì doveva essere, evidentemente, lì è stato. Insomma. Quindi adesso tutto bene? Tutto bene, sì, siamo felicemente sposati ormai da parecchi anni, e abbiamo una bambina e ci ricordiamo sempre che insomma prima o poi ci saremmo dovuti comunque incontrare, perché abbiamo proprio varcato le stesse soglie negli stessi giorni, quando insomma l'amore deve trovare una strada, prima o poi la trova, insomma, con tutti gli ostacoli insomma che ci possono essere. Non lo so, tu che pensi? È una delle infinite forme dell'amore. Sì, e soprattutto che sia un pochino di aiuto a molti giovani che io sento che si sposano comunque perché ormai hanno il lavoro, hanno la casa e tutti se lo aspettano. Si può evitare con grandi problemi da parte di tutti, però ci si riesce a superarlo, e insomma il futuro è il nostro, e il matrimonio è una condizione innaturale che va quindi gestita nel migliore dei modi. Non ho niente da aggiungere, guarda, rispetto a quello che dici tu, perché effettivamente è vero, ci sono tante persone che vanno verso l'infelicità propria, altrui, che però, voglio dire, anche quest'uomo vicino ha una sua importanza, voglio dire. E quindi hai fatto un gesto molto, molto generoso verso di te e verso di lui. Grazie Luisa. Grazie a te Barbara, ciao. A presto, ciao. È in arrivo un messaggio nella bottiglia da parte di Ines. Ora che è morto, nessuno capisce perché ho dedicato la vita a mio marito, un oscuro professore di matematica, rinunciando alle mie aspirazioni. Adesso che ho 65 anni e lui è morto, ancora le mie sorelle mi tormentano, evocando chissà quali miracoli avrei potuto fare con la mia povera laurea. Viviamo insieme per necessità economica. Non so come sfuggire alle loro sciocchezze. Mi fanno tanto male. Le tue sorelle sono due grandi bugiarde. Mentono per la gola. Non è vero affatto che loro rimpiangano. Non rimpiangono nulla. Vogliono tormentare te, inducendo te al rimpianto. Anzi, molto peggio. Ti vogliono rovinare persino il ricordo del marito. Perché ne sono gelose ancora adesso. Sono gelose e invidiose della vostra felicità. Non le ha acquietate neanche la morte di lui. Io vorrei suggerirti questi versi di Emily Dickinson, che ho già letto quassù dal faro. E mi raccomando però, non sono da dire a loro, sono da tenere per te come una specie di talismano, perché quando li saprai loro non potranno farti più nulla, perché questa è l'essenza di ciò che c'era fra te e tuo marito. Sono parole che tu avresti potuto dire a lui. Poiché tu servisti il cielo, vedi, o cercasti di farlo. Io non potei, poiché tu saturavi la mia vista e io non avevo più occhi per una misera eccellenza, quale il paradiso. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ah, grazie. Ehi, è la mia Maria delle Acciughe che sta parlando? Ecco, io ti seguo come una figurina mitologica che va a piedi per colline, per valli. Che cosa ti è successo, Maria, in questo periodo? Mi è successo, niente, ho aspettato adesso un mio amico fuori dal rapporto per tre quarti d'ora, comunque adesso sto bene, adesso sono in casa finalmente. E perché ti lasciano fuori dalla porta? Perché? Così, perché gli amici sono strani. Perché tu sei molto gentile e quindi evidentemente la gentilezza è un lusso che si paga caro, e tuttavia bisogna perseguirlo, secondo me, non bisogna diventare come gli altri. Beh no, certo, bisogna ricrederci sempre. Pensa che una volta ho un amico, che adesso diventa un mio amico, prima ho lavorato con lui tantissimi anni, e a forza di lavorare insieme siamo diventati amici. E così amici al punto che al momento buono lui non mi ha pagato, ecco. E io per compensare il fatto che appunto loro non mi pagavano, gli facevo moltissimi regali sia a lui che alla famiglia, per vedere se a un certo punto magari diventava un po' più buono. Questo mio amico ha una mamma che era malata di cuore, ma molto, ma non lo sapevano ancora. Allora si sono detto che loro sono una famiglia benestante. Hanno chiamato un medico famoso, un medico alla moda, uno di quelli che forse ha curato un raffreddore a uno della famiglia Agnelli, e per questo passano per dei luminari. E allora questo dottore, per compiacere anche forse la signora, perché sono anche così questi medici alla moda, questo medico gli ha dato delle visitate, ha dato delle medicine per bocca solamente. E che ha detto che stava bene? Sì, che stava bene, rendendosi conto della cosa grave. La signora, la mamma del mio amico, ha preso le medicine per 10 giorni, stava per morire, ma davvero. Allora mi hanno chiamato se conoscevo qualcuno, le ho mandate da un medico, da un professore, che l'ha visitata e l'ha operata d'urgenza al cuore. Lei stava per morire veramente. L'ha operata d'urgenza e l'hanno presa per i capelli. E si è salvata. E si è salvata. La signora, oltre al figlio mio amico, ha anche una figlia e un marito, però in quel momento lì erano occupatissimi e quindi tutta la convalescenza della signora l'ho fatta io, cioè l'assistenza l'ho fatta tutta io. Ma loro non venivano mai a trovarli, familiari? Loro non venivano quasi mai. Le volte che venivano, visto che perdevano del tempo per il loro lavoro ad andare a trovare la madre o la moglie, mi facevano fare delle commissioni, perché così non perdevano tempo, quindi il tempo che io avrei potuto usare per riposarmi lo usavo invece per trottare per loro. Per trottare per loro, infatti. E quindi dopo essere rimasta con lei per 8 giorni e 8 notti, figli così, sì, venivano a fare delle visitine brevissime, dopo 8 giorni è arrivato il marito, il papà del mio amico, e mi ha detto: Maria, ciao, brava, grazie, sei stata gentilissima a fare questa cosa qui, e ho una sorpresa per te, una sorpresa che ti piace tanto. Allora io ho pensato, bene, me la merito, ecco, ho pensato. Ti ho portato una salama da sugo, devo dire, le salame da sugo mi piacciono moltissimo, infatti io ero contentissima, perché ne vado proprio pazza. E poi mi piaceva anche come simbolo affettuoso il fatto che mi volessero fare un regalo, ma si erano accorti. E lui prende questo sacchetto, mi dà il sacchetto con la salama da sugo in mano, io lo ringrazio e lui mi dice: fanno 36 euro. Allora, quindi lui voleva i soldi della salama. E gli hai dati? E io gli ho dati. Brava. Un abbraccio dal Faro, ciao. Ciao, ciao, ciao. Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие. Vorrei chiudere con una poesia di Algernon Charles Swinburne dal poemetto Il trionfo del tempo, nella traduzione di Bianca Maria Rizzardi, che dedicò ad un suo amante, che però amante non fu mai. O amore, mio amore, se tu mi avessi amato, fermi come le stelle saremmo stati e ci saremmo mossi come si muove la luna, amorosa del mondo, se la sorte fosse stata buona con noi. E non lo è stata. La pienezza del tempo ti avrei dato e la vita per giunta, se soltanto una volta, per un'ora, fossimo stati una cosa sola. Sì, lo so bene. Se un giorno fossi stato mio, mio nel pulsare del sangue, mio nel respiro, non il tempo che dice e nega, né tutte le cose forti ci avrebbero diviso allora, non tutte le cose terrene, non tutte quelle divine, non la gioia né il dolore, non la vita né la morte. Mai più sarò amico delle rose. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.